conto, dovrei fare il contabile. Lei mi ama perché sono intoccabile. Salgo al lampo, jet bianco, parcheggiata di fianco la Lambo. Le finestrini puoi vedere il mare, sopra l'asfalto ci puoi pattinare. Saluta mamma, l'estate è un cancan, è un aeroplano dalla tangenziale. Siamo solo in città e belli con le zanzare. Sospiri immaginando isole lontane. Dove sta l'Europa che ci voglio parlare? Alla festa in piazza suonano le fanfare. Come stai chica? Nel paese qui si gioca una partita. Tiburone in spiaggia da sinistra a destra. Quanto picchia il sole, senti nella testa. Suonano le fanfare. Suonano le fanfare. Quanta confusione sotto questo sole. Sotto questo sole nella testa. Suonano le fanfare. Yo, ora dove sto? Non serve la giacca. Andiamo in due le onde su una moto d'acqua. Baby no grazie, io non ballo il tango. Piuttosto aspetto al banco, completo in lino blanco. Intanto la tua bocca sa di mango. Mamma sita, la cica preferita. Siamo sincronizzati sugli stessi suoni. Così vicini che facciamo anche gli stessi sogni. Come stai cica? Nel paese qui si gioca una partita. Tiburone in spiaggia da sinistra a destra. Quanto picchia il sole, senti nella testa. Suonano le fanfare. Suonano le fanfare. Quanta confusione sotto questo sole. Sotto questo sole nella testa. Suonano le fanfare. Come stai chica? Come stai chica? Nel paese qui si gioca una partita. Tiburone in spiaggia da sinistra a destra. Quanto picchia il sole, senti nella testa. Suonano le fanfare.